Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. La disoccupazione resta stabile in Europa, ma l'inflazione torna in territorio negativo. Questi i dati diffusi da Eurostat che confermano i dubbi sulla solidità della ripresa europea. L'Eurozona mette nuovamente piede nella deflazione, dopo esserne uscita lo scorso aprile. Meno 0,1%, questo è il livello dei prezzi al consumo previsto per settembre da Eurostat. A gravare sull'indice dei prezzi è soprattutto la discesa dei costi dell'energia, con un calo dell'8,9%. Mentre i prezzi delle altre componenti del paniere tendono a crescere leggermente. Gli occhi sono sempre puntati sulle prossime scelte di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Un possibile aumento del piano di acquisti dei titoli da parte di Francoforte è attualmente dibattuto fra gli analisti. A renderlo più probabile sarebbero il già annunciato rialzo dei tassi statunitensi sia il bassissimo livello dei prezzi europei. Sull'argomento è intervenuta l'agenzia di rating Standard & Poor's, che prevede che il quantitative easing della BCE sarà più lungo del previsto e durerà oltre il settembre 2016. Visti i pericoli per le esportazioni europee portate dall'apprezzamento dell'euro sul dollaro e dal rallentamento delle economie emergenti. Eurostat ha inoltre diffuso i dati sulla disoccupazione di agosto, che nell'eurozona resta stabile all'11%. Alberto Battaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Tribunale dell'Unione Europea conferma che l'iniziativa che chiede la cancellazione del debito pubblico troppo oneroso dei paesi in stato di necessità come la Grecia non può essere accolta dalla Commissione Europea perché non ce n'è traccia nei trattati. Il Tribunale Europeo rigetta così il ricorso di un cittadino greco alla guida dell'iniziativa Un milione di firme per un'Europa della solidarietà. L'Italia ha aderito ufficialmente alla cooperazione rafforzata sul brevetto europeo. Continua a restare fuori la Spagna, che insieme all'Italia si era opposta, più la Croazia, in quanto da poco entrata nell'Unione Europea. Il coccodrillo simbolo della Lacoste è così noto che non è consentito a nessun altro di registrare un marchio con un coccodrillo o con un caimano per prodotti in cuoio, vestiti e scarpe. Lo stabilisce il Tribunale Europeo in una sentenza, mettendo così fine ad una vicenda giudiziaria iniziata nel 2007, quando Lacoste si oppose ad una domanda di registrazione di una società polacca. Dall'Europa arriva il primo via libera per 1.400.000 euro dall'Italia, provenienti dal Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione. Se il provvedimento passerà anche al Parlamento e al Consiglio dei Ministri dell'Unione, questi fondi supporteranno nella ricerca di un nuovo impiego i 184 lavoratori licenziati da Alitalia. Force India e Sauber hanno presentato un reclamo al commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager contro presunte distorsioni nella governance del circus della Formula 1. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.